Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Era circa la mezzanotte. La falce della luna calante, sanguigna per le ultime tracce del temporale, sorgeva dietro la cittadina di Armentières e con il suo pallido chiarore metteva in risalto il cupo profilo delle case e lo scheletro dell'alto campanile traforato. Di fronte le acque della Lys scorrevano come se il fiume fosse di piombo fuso, mentre sulla riva opposta si intravedeva la nera massa degli alberi stagliarsi contro un cielo temporalesco, invaso da nuvoloni color rame, che davano l'illusione di un crepuscolo nel cuor della notte. A sinistra sorgeva un vecchio mulino abbandonato, dalle ali immobili, tra le rovine del quale una civetta lanciava il suo strido acuto, periodico e monotono. Qua e là, nella pianura, a destra e a sinistra della strada, percorsa dal lugubre corteo, apparivano radi alberi bassi e tozzi, simili a nani deformi accovacciati per spiare gli uomini in quell'ora sinistra. Di tanto in tanto un grande lampo squarciava l'orizzonte in tutta la larghezza, serpeggiava sulla massa nera degli alberi e come una spaventevole scimitarra veniva a tagliare in due il cielo e l'acqua. Non un soffio di vento passava nella greve atmosfera, un silenzio di morte schiacciava tutta la natura. Il terreno era umido e viscido per la pioggia appena caduta e le erbe ravvivate emanavano un odore più acuto. Due domestici trascinavano Milady, tenendola ciascuno per un braccio. Dietro a loro camminava il carnefice e dietro a questi Lord de Winter, D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis. Ultimi venivano Planchet e Bazin. I due servitori conducevano Milady verso il fiume. La bocca della donna era muta, ma gli occhi parlavano con la loro inesprimibile eloquenza, supplicando uno dopo l'altro coloro che ella guardava. Trovandosi avanti di qualche passo, disse ai due uomini: «1000 pistole per ciascuno se proteggete la mia fuga. Ma se mi consegnate i vostri padroni, ho qui nei pressi dei vendicatori che vi faranno pagare cara la mia morte». Grimaud esitava. Mousqueton tremava in tutte le membra. Athos, che aveva udito la voce di Milady, si accostò in fretta. Lord de Winter lo imitò e disse: «Allontanate questi domestici. Lei ha parlato con loro. Non sono più sicuri». Furono chiamati Planchet e Bazin a sostituire Grimaud e Mousqueton. Giunti in riva all'acqua, il carnefice si accostò a Milady e le legò le mani e i piedi. Allora ella ruppe il silenzio per gridare: «Siete dei vili! Siete dei miserabili assassini! Vi mettete in 10 per trucidare una donna! Badate, se ora nessuno mi aiuta, sarò vendicata!» «Non siete una donna», disse freddamente Athos. «Non appartenete alla specie umana. Siete un demonio sfuggito dall'inferno che noi faremo rientrare laggiù». «Ah, i signori uomini virtuosi», disse Milady, «badate che colui il quale toccherà un solo capello del mio capo è a sua volta un assassino. Il boia può uccidere senza essere per questo un assassino, signora», disse l'uomo dal mantello rosso battendo sulla sua larga spada. «È l'ultimo giudice. Ecco tutto. Nach Richter, come dicono i nostri vicini, i tedeschi». E poiché, così dicendo, la legava, Milady lanciò 2 o 3 urli selvaggi che produssero un'impressione strana e lugubre mentre si perdevano nella notte e si spegnevano nella profondità dei boschi. «Ma se sono colpevole, se ho commesso i delitti di cui mi accusate», urlava Milady, «conducetemi dinanzi a un tribunale. Non siete giudici voi per condannarmi». «Vi avevo proposto Tyburn», disse Lord de Winter. «Perché Non avete voluto. Perché non voglio morire, esclamò Milady ribattendosi. Perché sono troppo giovane per morire. La donna che avete avvelenato a Bethune era più giovane di voi, signora, e tuttavia è morta, disse D'Artagnan. Milady lanciò un grido di terrore e cadde in ginocchio. Il carnefice prese Milady sotto le braccia per trascinarla verso la barca. «Oh mio Dio!» esclamò Milady. «Mio Dio! Volete annegarmi?» Quelle grida avevano qualcosa di così straziante che D'Artagnan, il quale prima era il più accanito contro Milady, si abbandonò su di un ceppo, chinò la testa, turandosi le orecchie con le palme delle mani, e ciò nonostante la sentiva ancora minacciare e gridare. Di tutti quegli uomini D'Artagnan era il più giovane, gli mancò il cuore. Non posso vedere questo spettacolo orrendo, non posso permettere che questa donna muoia così. Milady, udite queste poche parole, aveva intravisto un barlume di speranza. D'Artagnan, D'Artagnan, gridò, ricordati che t'ho amato. Il giovane si alzò e fece un passo verso di lei, ma Athos bruscamente trasse la spada e gli tagliò la strada. Se fate un passo di più, D'Artagnan gli disse, noi due incroceremo le spade. D'Artagnan si inginocchiò e pregò. Su, continuò Athos, carnefice, fa il tuo dovere. Volentieri, signori, disse il carnefice, perché quanto è vero che sono buon cattolico, credo fermamente di essere giusto nell'adempiere la mia funzione su questa donna. Sta bene. Athos si avvicinò a Milady. Vi perdono, disse egli, il male che mi avete fatto. Vi perdono il mio avvenire spezzato, il mio onore perduto, il mio amore insozzato e la salvezza della mia anima compromessa per sempre dalla disperazione in cui mi avete gettato. Morite in pace. Lord de Winter si accostò a sua volta. Vi perdono, le disse, l'avvelenamento di mio fratello, l'assassinio di sua grazia a Lord Buckingham. Vi perdono la morte del povero Felton. Vi perdono gli intrighi contro la mia persona. Morite in pace. E in quanto a me, disse D'Artagnan, perdonatemi, signora, di aver provocato la vostra collera con un raggiro indegno di un gentiluomo. In cambio, vi perdono l'assassinio della mia povera amica e le vostre crudeli vendette su di me. Vi perdono e piango su di voi. Morite in pace. I'm lost, mormorò Milady in inglese. I must die. Quindi si rialzò da sola. Volse all'intorno uno di quei suoi vividi sguardi che sembravano sprigionarsi da un occhio di fiamma. Non vide nulla. Stette in ascolto e non udì nulla. Intorno aveva soltanto nemici. «Dove morrò?» chiese. «Sull'altra riva», rispose il boia. Dopodiché la fece entrare nella barca e mentre vi metteva piede, Athos gli consegnò una somma di denaro. «Ecco», disse, prendete il prezzo dell'esecuzione, sia ben chiaro che noi agiamo da giudici. Sta bene, rispose il boia. E adesso, a sua volta, questa donna sappia che io non faccio qui il mio mestiere, ma il mio dovere. E buttò il denaro nel fiume. La barca si allontanò verso la riva sinistra della Lys, portando la colpevole e l'esecutore. Tutti gli altri rimasero sulla riva destra, dove si erano inginocchiati. La barca scivolava lenta, lungo la corda del traghetto, sotto il riflesso di una nube pallida che in quel momento stava a piombo sull'acqua. La si vide accostarsi sull'altra riva. Le sagome si stagliavano nere sull'orizzonte rossastro. Durante la traversata, Milady era riuscita a staccare la corda che le legava i piedi. Arrivata sulla riva, balzò agilmente a terra e prese la fuga, ma il terreno era umido. Quando fu in cima all'argine, sdrucciolò e cadde sulle ginocchia. Di certo un pensiero superstizioso le attraversò la mente, comprese che il cielo le rifiutava aiuto e rimase nell'atteggiamento in cui si trovava, la testa china e le mani giunte. Allora, dall'altra sponda, fu visto il carnefice alzare lentamente le braccia. Un raggio di luna si rifletté sulla lama della sua larga spada. Le due braccia ricaddero. Si udì il sibilo della scimitarra e il grido della vittima. Poi una massa troncata stramazzò sotto il colpo. Il 6 del mese seguente, il re, mantenendo la promessa fatta al cardinale di lasciare Parigi per tornare alla Rochelle, uscì dalla capitale ancora stordito dalla notizia appena diffusasi che Buckingham era stato assassinato. Anche se avvertita dal pericolo che correva l'uomo da lei tanto amato, la regina, quando gliene fu annunciata la morte, non volle crederci. Si lasciò perfino sfuggire imprudentemente la frase: «È falso, mi ha appena scritto». Ma l'indomani le fu gioco forza credere alla fatale notizia. Laporte, trattenuto come tutti in Inghilterra dagli ordini del re Carlo I, arrivò a portatore dell'ultimo e funebre dono che Buckingham inviava ad Anna d'Austria. La gioia del re era stata vivissima. Non si diede la pena di dissimularla e anzi la manifestò ostentatamente davanti alla regina. Luigi XIII, come tutti gli animi deboli, mancava di generosità. Ben presto il re ridiventò tetro e sofferente. La sua fronte non era di quelle che si rasserenano per lungo tempo. Capiva che tornando al campo avrebbe ripreso il gioco e tuttavia ci tornava. Il cardinale per lui era il serpente incantatore e lui l'uccello che saltella di ramo in ramo senza riuscire a sfuggirgli. Pertanto il ritorno verso la Rochelle era profondamente triste. Soprattutto i nostri quattro amici testavano lo stupore dei camerati, procedevano in gruppo, fianco a fianco, lo sguardo cupo, il capo chino. Athos soltanto rialzava ogni tanto l'ampia fronte, un bagliore gli brillava negli occhi, un amaro sorriso gli sfiorava le labbra. Poi, come i compagni, si abbandonava di nuovo alle sue riflessioni. Non appena la scorta arrivava in una città e il re era stato accompagnato al suo alloggio, i quattro amici si ritiravano nel luogo loro destinato oppure in qualche taverna fuori mano. E qui non giocavano né bevevano. Parlavano soltanto a bassa voce, badando attentamente a che nessuno li ascoltasse. Un giorno che il re aveva ordinato una sosta per cacciare la gazza e i quattro amici, come al solito, invece di seguire la caccia, si erano fermati in un'osteria sulla strada maestra, un uomo proveniente a briglia sciolta dalla Rochelle si fermò sulla porta a bere un bicchiere di vino e gettò uno sguardo all'interno della stanza dove i quattro moschettieri erano seduti a un tavolo. «Oi là, Monsieur d'Artagnan», disse, «chi vedo? Siete proprio voi!» D'Artagnan alzò la testa e lanciò un grido di gioia. L'uomo che egli chiamava il suo spettro era lo sconosciuto di Meung, di Rue des Fossoyeurs di Arras. D'Artagnan sguainò la spada e si lanciò verso la porta, ma questa volta, invece di fuggire, lo sconosciuto balzò giù da cavallo e mosse incontro a D'Artagnan. «Ah, signore», disse il giovanotto, «vi ritrovo finalmente, questa volta non mi sfuggirete più». «Non è affatto mia intenzione, signore, perché questa volta vi cercavo. In nome del re vi arresto e vi ingiungo di consegnarmi la vostra spada, signore, e senza resistenza, ne va della testa, ve ne avverto». Chi siete dunque? Domandò D'Artagnan abbassando la spada ma senza consegnarla. Sono i cavalieri di Rochefort, rispose lo sconosciuto, lo scudiere di Monsignore Cardinal di Richelieu, e ho l'ordine di accompagnarvi da Sua Eminenza. Stiamo tornando da Sua Eminenza, signor cavaliere, disse Athos facendosi avanti, e accetterete di certo la parola di Monsieur D'Artagnan che andrà difilato alla Rochelle. Devo consegnarlo nelle mani delle guardie che lo ricondurranno al campo. Gli serviremo noi da guardie, signore. Parola di gentiluomini, ma parola di gentiluomini, soggiunse Athos aggrottando le sopracciglia, Monsieur D'Artagnan non ci lascerà. Il cavaliere di Rochefort si guardò alle spalle e vide che Porthos e Aramis si erano collocati fra lui e la porta. Capì di essere completamente alla mercé di quei quattro uomini. Signore, disse, se Monsieur D'Artagnan consegnerà la sua spada e unirà la sua parola alla vostra, mi accontenterò della vostra promessa di scortare Monsieur D'Artagnan al quartiere di Monsignore il Cardinale. Avete la mia parola, signore, disse D'Artagnan, ed ecco la mia spada. Tanto meglio per me, aggiunse Rochefort, perché debbo continuare il mio viaggio. Se è per raggiungere Milady, disse freddamente Athos, è inutile, non la troverete. Che ne è stato di lei? Domandò inquieto Rochefort. Tornate al campo e lo saprete. Rochefort riflette un istante, poi, siccome c'era una sola giornata di cammino per giungere a Surgères, dove il cardinale sarebbe venuto incontro al re, decise di seguire il consiglio di Athos e di tornare indietro con loro. D'altronde quel ritorno gli offriva il vantaggio di sorvegliare lui stesso il prigioniero. Venne ripreso il cammino. L'indomani, alle 3 del pomeriggio, arrivarono a Surgères. Lì il cardinale attendeva Luigi XIII. Il ministro e il re si scambiarono infiniti complimenti, si felicitarono della fortunata combinazione che liberava la Francia dall'acerrimo nemico che le sobillava contro l'Europa. Dopodiché il cardinale, avvertito da Rochefort dell'arresto di D'Artagnan, avendo gran fretta di vederlo, si congedò dal re, invitandolo a venire il giorno dopo a visitare i lavori della diga ormai terminati. Tornando la sera al suo alloggiamento di Pont de la Pierre, il cardinale trovò, ritti davanti alla porta della sua dimora, D'Artagnan senza spada e i tre moschettieri armati. Questa volta, siccome era sotto buona scorta, li squadrò severamente e con l'occhio e con la mano fece segno a D'Artagnan di seguirlo. Questi obbedì. «Ti aspetteremo, D'Artagnan!» disse Athos a voce abbastanza alta perché il cardinale lo sentisse. Sua Eminenza aggrottò le sopracciglia, si fermò un attimo, poi proseguì la strada senza pronunciare parola. D'Artagnan entrò dietro al cardinale e Rochefort dietro a D'Artagnan. La porta venne sorvegliata. Sua Eminenza si avviò nella stanza che gli serviva da studio e fece cenno a Rochefort di introdurre il giovane moschettiere. Rochefort obbedì e si ritirò. D'Artagnan rimase solo in presenza del cardinale. Era il suo secondo colloquio con Richelieu e più tardi confessò che aveva veramente creduto che sarebbe stato l'ultimo. Richelieu rimase in piedi, addossato al camino. Un tavolo lo separava da D'Artagnan. Signore, cominciò il cardinale, siete stato arrestato dietro mio ordine. Me l'hanno detto, monsignore. Sapete perché? No, monsignore, perché la sola cosa per cui potrei essere arrestato è ancora ignota a vostra eminenza. Richelieu guardò fisso il giovane. Cosa? Disse. Che significa ciò? Se Monsignore vuole prima informarmi di quali delitti mi si accusa, gli dirò poi quello che ho fatto. Vi si accusa di delitti che hanno fatto rotolare teste più alte della vostra, signore, disse il cardinale. Quali, Monsignore? Domandò D'Artagnan con una freddezza che stupì il cardinale medesimo. Vi si accusa, disse il cardinale, di aver corrisposto con i nemici del regno. Vi si accusa di avere carpito i segreti dello Stato e vi si accusa di aver tentato di mandare a vuoto i piani del vostro generale. E chi mi accusa di questo, monsignore? Disse D'Artagnan, il quale supponeva che l'accusa venisse da Milady. Una donna marchiata dalla giustizia del nostro paese. Una donna che ha sposato un uomo in Francia e un altro in Inghilterra. Una donna che ha avvelenato il suo secondo marito e ha tentato di avvelenare anche me. «Che dite mai, signore?» esclamò il cardinale stupito. «E di quale donna parlate così?» «Di Milady de Winter», rispose D'Artagnan. «Sì, di Milady de Winter, della quale vostra eminenza ignorava certamente tutti i delitti quando la onorò della sua fiducia. Signore, disse il cardinale, se Milady de Winter ha commesso i delitti di cui parlate, verrà punita. Lo è già stata, monsignore. E chi l'ha punita? Noi. È in prigione, è morta. Morta? Ripeté il cardinale che stentava a credere a ciò che sentiva. Morta! Avete detto che è morta! Tre volte ella aveva tentato di uccidermi e le avevo perdonato, ma ella ha ucciso la donna che amavo. Allora i miei amici e io l'abbiamo presa, giudicata e condannata. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.